in primo piano. Allora, i titoli, la novità ultima ovviamente è il fatto che c'è stato un nuovo no alla presentazione della lista del PDL nella provincia di Roma. E dunque, vediamo i titoli dei giornali. Corriere, nuovo no alla lista PDL, Berlusconi, scendiamo in piazza. Per Repubblica, liste, l'ira di Berlusconi. La Stampa, Berlusconi, PDL in piazza per salvare la democrazia. Il Messaggero, Roma, la lista PDL resta fuori. Poi ci sono i giornali che iniziano a dire sostanzialmente mo basta. Il Giornale, caro Silvio, ora basta, pensi al voto. Il Riformista, adesso finitela. Libero, ora basta, votiamo. Il Fatto Quotidiano, respinti, respinti, respinti. L'Unità mette una foto di Berlusconi che, beh, giocano molto sul fatto, alza il braccio per salutare, ma sembra così, dal braccio un po' teso, insomma, rievoca ovviamente il saluto fascista. A volte ritornano, questo è il titolo dell'Unità, corredo di questa foto. Per il Manifesto c'è un profilo di Berlusconi nell'ombra, io sono la legge. Solo l'apertura del Sole 24 Ore, poi la vedremo. Il tema economico del giorno: 6 mesi in più di CIG, vale a dire la cassa integrazione ordinaria. C'è questa proposta di legge di cui si parlerà, un progetto di legge per allungare a 78 settimane gli interventi ordinari, anche se il ministro del welfare Sacconi ha frenato, ma poi lo vedremo più avanti. Per orientarsi nel ginepraio, per usare un eufemismo, di quello che sta succedendo alle regionali, beh, ieri c'è stato appunto un nuovo stop, questa volta dall'ufficio elettorale del Tribunale di Roma, che non ha accettato l'iscrizione della lista per la provincia di Roma del PDL, che è stata ripresentata dopo che è stato fatto dal governo un decreto a proposito, il decreto salvaliste, quel decreto che il TAR, nel respingere un primo ricorso della presentazione delle liste, ha definito un decreto che non si può fare perché c'è la legge regionale che regolamenta le elezioni. Io la premessa è sempre questa: se non ci capite nulla, guardate che siete con la maggioranza degli italiani, state tranquilli, in qualche modo insomma ci sarà una parola fine, chi lo sa quando. No, oggi il Sole 24 Ore spiega forse quando, tra poco lo vedremo. Prima la premessa, Iena, pagina 3 della Stampa, il suo solito graffio di Riccardo Barenghi: elezioni irregolari in Iraq. E allora, dicevamo, quando potrebbe essere la parola fine? La quinta sezione pronta per sabato. Questo scrive il Sole 24 Ore Antonello Cherchi. Potrebbe essere sabato il giorno in cui si conoscerà la soluzione del pasticcio elettorale. Dunque, pazientate ancora qualche giorno, forse. La quinta sezione del Consiglio di Stato ha già predisposto il tutto per potersi esprimere tra 3 giorni sull'ordinanza del TAR del Lazio che ha confermato l'esclusione della lista del PDL dalle regionali. Il presidente della quinta sezione, Stefano Baccarini, ha infatti già fissato, in previsione dell'appello contro la sospensiva del TAR, 2 camere di consiglio straordinarie, una venerdì, l'altra per sabato. La scadenza dei tempi rende però più ragionevole l'ipotesi che Palazzo Spada si riunisca sabato. Dunque, forse sabato. Il Sole, poi a pagina 13, domande e risposte. Perché è stato respinto? Cosa doveva valutare l'ufficio? Cosa succederà ora? Non è facile saperlo. La Stampa, pagina 5, ci gioca anche un po'. Secondo me fa bene. Fabio Martini mette il gioco dell'oca. Gli scenari delle regionali. Il gioco dell'oca, avete presente quello che si tiravano i dadi, si poteva andare avanti di 3 caselle, tornare dietro di 2, tornare al via, saltare. Beh, più o meno si gioca così. Si parte dal 28 febbraio, sei in coda per consegnare le liste, ma fermo un turno perché sei uscito per mangiare un panino. Oppure la commissione elettorale respinge la lista dei candidati, torni al via. La Corte d'Appello accoglie il ricorso di una lista avversaria, esclude dalle elezioni la lista del candidato presidente. Hai perso. Questo è la casella 6. E così si arriva a 33 caselle. Ovviamente la vittoria è 28 marzo. Hai vinto. Puoi partecipare alle elezioni. Se riesci a superare ovviamente tutti gli inghippi, tutti i casini che si stanno verificando in questi momenti. Intanto segnalo, nel marasma di articoli e commenti, alcune cose. La prima, un'intervista a Repubblica di Walter Veltroni, l'ex segretario del PD, che accusa dalla destra la strategia del caos, il PD alzi la sfida oltre le liste. Berlusconi vuole radicalizzare il confronto, dice Veltroni, noi non dobbiamo cadere nella trappola proponendo al paese un messaggio positivo e di unità. Berlusconi, secondo Veltroni, mira alla destrutturazione dei pilastri su cui si fonda il sistema costituzionale. Parlamento svuotato, trasformato in puro strumento di ratifica. Magistratura delegittimata, ridotta nella sua autonomia. Libera informazione limitata e censurata. Presidenza della Repubblica sempre sotto tiro. In questo scenario, dice Veltroni in questa intervista a Goffredo De Marchis, il rischio è il finale di Berlusconi, un filale che ricorda il Caimano di Moretti, un incubo inquietante che tutte le persone responsabili devono far sì che non diventi una preveggenza. Secondo Veltroni si rischia il Caimano. Chi invece attacca anche la posizione, come si starebbe comportando il PD, è Angelo Panebianco in prima pagina del Corriere della Sera, nel suo editoriale Un partito prigioniero, di chi ovviamente l'ipotesi, la tesi di fondo è di Pietro. Panebianco dice, aveva ragione Ferrara, ricordate lunedì l'abbiamo letto, il PD poteva, avrebbe potuto dire con un gesto cavalleresco, accertati i pasticcioni dei nostri avversari, noi che abbiamo a cuore la sorte della democrazia non possiamo accettare che una competizione democratica venga svuotata di significato per assenza del nostro antagonista. Ma ciò avrebbe richiesto, scrive Panebianco, che il PD fosse un partito diverso da ciò che è. Un partito forte, capace di decidere, invece è in mano a Di Pietro, questa è la teoria. Parlo della manifestazione di sabato, dice Panebianco. Se non verrà annullata, risulterà per il PD un boomerang e un pasticcio politico, specchio delle sue debolezze, perché è inutile, sarebbe una manifestazione necessariamente contro la posizione del capo dello Stato e non solo contro il governo. Chi invece pensa alla contropiazza, ormai è abbastanza chiaro, è Berlusconi. Il premier disegno contro di noi, così ho perso 10 punti, leggo a pagina 3 del Corriere della Sera. Berlusconi, che tra l'altro oggi terrà una conferenza stampa, viene annunciato dal Corriere, dirà agli italiani come sono andate le cose dal suo punto di vista, accuserà i magistrati, farà riferimento a quelle prove di una discriminazione che ieri ha pubblicato il giornale. Ieri l'abbiamo visto, no? Due pesi e due misure in termini di valutazione della validità delle firme che sono state depositate. Insomma, Berlusconi che dice: spiegherò agli italiani cosa è successo, andremo in piazza. Questa è la situazione. Ce n'è anche di per qualche attacco al giudice che ha deciso ieri, si sono già pronunciati i vari giudici, ma ieri, come detto, la Corte d'Appello di Roma ha respinto nuovamente le liste ripresentate al PDL. L'attacco al giudice, la giudice, pagina 2 del Corriere, Che Guevara non mi ha influenzato. Perché Che Guevara? Al TG3 il giudice che ha deciso, Anna Argento, è apparsa e a fianco a lei nel suo ufficio c'è una foto di Che Guevara. Assicura lei che della foto si è accorta solo adesso che è diventato un capo d'accusa. La foto l'ha portata insieme a dei quadri il collega con cui divido la stanza al primo piano dell'edificio B del tribunale. Questo dice Anna Argento, cugina alla lontana del regista Dario Argento, e che dice: questo caos mi può dare amarezza, si è scatenato senza motivo ma non intacca la serenità della mia condotta. Sono in magistratura dal 77, nego di essere di sinistra, posso simpatizzare con alcuni rappresentanti di magistratura democratica, che è la corrente più di sinistra appunto dei magistrati, ma più facilmente voto per Unicost, che è la corrente invece di centro, cioè la corrente dei moderati. E dice: sicuramente è l'ultima volta che farò parte della corte che deve decidere, della sezione che deve decidere sui ricorsi elettorali. Dovranno passare la prossima volta sul mio cadavere. Anche lei sicuramente è stata segnata, questa giudice ritratta vicino a una foto di Che Guevara per questa accusata. Tanto che il Fatto Quotidiano in prima pagina, ecco, mette: caccia continua ai giudici, ora nel mirino, dopo Fabio De Pasquale, che è il pubblico ministero del processo Mills, Raimondo Mesiano, quello dei calzini turchesi, quello che ha condannato la sentenza Cirfininvest, ora Anna Argento. A pagina 2, caccia il giudice, l'argento, il magistrato che ha escluso la lista, rea, tra virgolette, di essere stata ripresa vicino a un ritratto del CE. Mi affido al Sole 24 Ore e prego che arrivi presto sabato, forse ci sarà la parola fine, come scrive Antonello Cherchi. La politica, voglio segnalare anche alcune cose. La prima è Di Girolamo. Sapete, il senatore che è finito in carcere, ex senatore, si è dimesso, è finito in carcere, accusato di far parte di quel sistema, di quella maxi inchiesta sui presunti maxi evasione fiscale che coinvolge anche Fastweb, Telecom Sparkle, insomma quella grande inchiesta, Di Girolamo avrebbe cominciato ad ammettere qualcosa, almeno si legge dai giornali. Il senatore conferma gli illeciti telefonici. Tra l'altro c'è una nuova intercettazione di questo Gennaro Mokbel, che sarebbe l'imprenditore, anche lui in carcere, che teneva, in qualche modo faceva il puparo, no? Quello che gestiva un po' Di Girolamo, che lo avrebbe anche fatto eleggere all'estero con una finta di residenza e coi voti dell''ndrangheta, questa è l'accusa. Secondo Il Fatto c'è una nuova intercettazione in cui proprio gli dice: guarda, gli organizzava tutto, devi parlare a questa TV di TV Video Calabria, che è una televisione che va anche all'estero, parlerai dopo, ti ho messo a parlare dopo una cartomante, tanto dite tutti e due cazzate, cioè tu e la cartomante dite cazzate, per cui si mettono a ridere. Cioè la sensazione è proprio di una persona che era totalmente in mano a questo Gennaro Mokbel, che gli ha organizzato tutto, gli ha organizzato elezioni, gli avrebbe organizzato anche i voti falsi e truccati dell''ndrangheta. Devi andare in TV, fai gli auguri perché c'è il compleanno di una persona che conta, di una signora che compie 100 anni, tipo una roba del genere, devi fare gli auguri in TV, è gente che conta e punto, parlerai dopo la cartomante, tanto dite tutti e due cazzate più o meno. Vabbè, e poi è stato rappresentante al Senato, ma oggi La Stampa ritrova una storia con un'intercettazione spiattellata, pagina 12, che riguarda tra l'altro il senatore Marcello Dell'Utri, che beh, insomma, solo La Stampa mette in pagina e che mette sotto un articolo corredato così: l''ndrangheta e l'altro senatore in Sud America. Cioè non solo Di Girolamo, scrive Guido Ruotolo, ma c'è anche l'elezione di un altro senatore, per il quale nel 2008 ci fu una telefonata tra tale Aldo Miccichè e il senatore appunto Dell'Utri, che svelerebbe un piano: fare incetta di schede bianche e barrarle. E c'è questa intercettazione abbastanza inquietante. Aldo Miccichè, ex DC calabrese, che si trova in Venezuela, telefona Dell'Utri e dice: sono i cosiddetti voti di ritorno, provvederò che ogni consolato ci sia la nostra presenza segreta per i cosiddetti voti di ritorno. Sai che sono i voti di ritorno? E Dell'Utri: sì, sì. Se non mi intendi, dimmelo. Sia ben chiarito che i diplomatici non sono nostri amici, di ciò ho le prove. Molti di loro hanno i baffetti. Quando ti dico i baffetti, lo capisci? Sì, sì, ride Dell'Utri. E consumano molta mortadella, non solo tosco-emiliana. Va bene? Benissimo, sì, sì. Ora, qual è il problema? Il problema, dice questo Miccichè, se noi blocchiamo il ritorno dei certificati e li controlliamo, o ce li votiamo noi, parliamoci chiaro, mi segui? Esatto, esatto, dice Dell'Utri, perché ognuno di questi gentiluomini c'ha la moglie, il cugino, il compare, allora io gli metto due dei miei, o sbaglio? Chiarissimo, bello, sì, sì, dice Dell'Utri. Poi quelli che distribuiscono i certificati improvvisamente mi vedo arrivare a casa mia 40 o 50 certificati, mi stai seguendo? Sì, come no, dice Dell'Utri. I comunistelli locali sono bravissimi, ma stavolta io li ho fottuti, dice questo Miccichè. Non ho perso nessuna elezione, non voglio mancarne una a 72 anni. E insomma, poi parla l'ultima cosa: ormai i nostri amici massoni, abbiamo superato tutte le cose, ricordati che insomma, vabbè, questa è la telefonata che si chiude. Miccichè dice: ti voglio bene. E Dell'Utri: grazie Aldo, un bacione, ciao ciao. Ce li votiamo noi? Sì, esattamente. Questo è il tono della conversazione riassunta, che certo getta nuove polemiche sul voto all'estero. Israele vuole cacciare Teheran dall'ONU. È il titolo che leggo dell'articolo sul giornale, la questione nucleare. Il presidente israeliano Shimon Peres, ieri nell'accogliere il vicepresidente americano Joe Biden, ha chiesto l'isolamento totale del paese guidato da Ahmadinejad, che la comunità internazionale, insomma, lo isoli. Questo è il tema del nostro sondaggio, ve lo ricordo, dovete votare su radio24.it. Che ne pensate? Ha ragione lo Stato di Israele, in questo caso una figura del presidente Peres, a dire uno come Ahmadinejad non può stare all'ONU, uno che invoca la distruzione, uno che vuole il nucleare e chissà per quali scopi, uno che dice vogliamo cancellare Israele ogni due per tre, non può stare appunto nell'ONU. Tema interessante, tema che ci riguarda molto più da vicino di quanto pensiamo. Radio24.it per votare, ne parleremo poi alle 8.30. La notizia economica del giorno, come detto, prende in mano solo 24 ore, 6 mesi in più di CIG. La proposta è questa, è un progetto di legge bipartisan che Davide Colombo all'interno spiega, per estendere da 52 a 78 settimane l'erogazione della cassa integrazione ordinaria. I sindacati applaudono, è una disposizione limitata al biennio 2010-2011, la copertura, che non è ancora stata quantificata ma verrebbe comunque trovata all'interno degli 8 miliardi già stanziati dal governo, è un'iniziativa frutto di un accordo con PD e Lega, il relatore è Giuliano Cazzola. C'è da dire che però il ministro Sacconi ha già posto un freno. In una nota ha preso la distanza dicendo: non si introduce così una protezione maggiore del lavoro perché già oggi il sostegno del reddito può essere corrisposto attraverso la CIGO, che ora viene conteggiata per giorni e non per settimane. Insomma, vedremo poi se questa proposta di legge avrà un cammino, un iter parlamentare. Per ora ha avuto un primo sì da parte della Commissione Lavoro a Montecitorio, è una proposta tra l'altro che accorpa una serie di proposte, sono spiegate sul Sole 24 Ore, vedremo se andrà avanti. Certo c'è già però insomma, un po' uno stop, una presa di distanza da parte del ministro del welfare Sacconi. Io voglio prendere in mano i giornali che riguardano la vicenda del coro di Ratisbona, che coinvolgono la Chiesa, le accuse di abusi sessuali in Germania, perché, come abbiamo sentito, il fratello del Papa, Georg Ratzinger, che in passato ha diretto questo coro di Ratisbona, ha fatto un'intervista nella quale ha detto: sì, qualche volta anch'io ho dato qualche schiaffo ai miei coristi, però ha detto non ho mai saputo nulla di molestie sessuali. Certo, le accuse sono molto forti, il portavoce vaticano padre Lombardi si è difeso dicendo gli abusi non solo sono dentro la Chiesa. Io mentre vi segnalo che Orazio La Rocca su Repubblica dice: ora la paura del Vaticano è che lo scandalo possa allargarsi, in qualche modo adombra questo timore anche Filippo Di Giacomo nel suo appuntamento sull'Unità Settimo Cielo. A pagina 16 scrive Filippo Di Giacomo: circola per il mondo un manipolo di avvocati anglosassoni specializzati nella bisogna e il loro sbarco in Italia è già programmato per i prossimi mesi. Probabile quindi che dopo quella irlandese, tedesca, austriaca, olandese, avremo diritto a una puntata italiana sui luoghi comuni dell'ormai poco originale dibattito su ciò che la Chiesa è e su ciò che dovrebbe fare. In questi giorni già si leggono argomentazioni tese a dimostrare come gli atti di pedofilia clericale sarebbero ricollegabili al celibato dei preti, a una indotta regressione sessuale risalente alla formazione impartita nei seminari minori, secondo un modello imposto dal Concilio di Trento. In realtà, dice Di Giacomo, ha dato prova la struttura del celibato di poter garantire una struttura psichica che favorisce l'indipendenza e la disponibilità esistenziale, continua a rappresentare uno dei carismi che la Chiesa cattolica testimonia nel cristianesimo globale. E anche nel sacerdozio celibe gli uomini sani non hanno mai conosciuto lo sviluppo di attrazioni erotiche nei confronti dei bambini come risultato dell'astinenza. Insomma, Filippo Di Giacomo, in questo commento, il celibato dei sospetti, dice: i casi di pedofilia nella Chiesa sono inferiori a quelli registrati altrove, ma chiaro, il tema fa presa, c'è chi specula sulla scelta dell'astinenza sessuale. E tra l'altro dice anche: attenzione, perché anche in Italia ora arriveranno questi avvocati che punteranno su questo. C'è pochissimo tempo, c'erano tante segnalazioni, molta cronaca sul delitto di Via Poma e il suicidio del ex portiere. C'è molto anche sul fatto che la terapia del dolore è diventata finalmente legge, ma siccome c'è un'ultima segnalazione, segnalo questa: distributore di condom in un liceo romano. È il primo caso, non sarà più necessario passare in farmacia, almeno per gli studenti del liceo scientifico Keplero di Roma, perché i profilattici si potranno prendere facilmente a scuola. Un distributore, prezzo di fabbrica, i promotori molto soddisfatti, il Vaticano molto critico a dire no alla banalizzazione della sessualità, esprimiamo viva preoccupazione, e lo fa tramite il vicario del Papa per la diocesi di Roma, vale a dire il Cardinal Vallini. La provincia è precisa, è un'iniziativa autonoma, certo fa discutere il distributore di preservativi nel liceo scientifico Keplero di Roma. Chissà, magari domani ce ne occupiamo. Detta così, se non c'è nient'altro, mi interessa anche sapere il vostro parere.